Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Altro tema ricorrente con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre è quello della sanità e della salute. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. E dunque, la sanità, ovviamente ne parliamo male, ma perché fa più notizia purtroppo la sanità che non funziona rispetto alla tanta, dobbiamo dire, che funziona, e soprattutto in Veneto ci sono dei punti di eccellenza notevoli. Però emerge, è messo in questi giorni un dato che parte, che coinvolge anche l'aspetto giudiziario, cioè denunce contro medici. Addirittura sono state 31.500 nel 2011, sono tante Mirko, e questa volta a diffondere il dato non è l'Adico ma è l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici ANIA, dove c'è stata un'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera proprio in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Questo perché? Perché comunque anche se i dottori e le strutture ospedaliere hanno un'assicurazione e in base poi a queste pratiche, diciamo, che nel 2011 sono state svolte, si è tirato un po' il bilancio. E cosa è emerso? È emerso che se anche c'è stato un calo di erogazioni di premi da parte dell'assicurazione del 6,7% rispetto al 2010, nel 2011, come hai detto, le denunce sono state 31.500, ma il dato che dà una reale dimensione di quello che è il fenomeno sono proprio le 90 denunce presentate ogni giorno per presunti errori medici, e questo sicuramente fa riflettere anche su una professione che non solo è critica per chi la svolge, ma sicuramente ci può anche, a nostro avviso, dare una dimensione di quello che sono anche le difficoltà che questi dottori possono trovarsi a dover lavorare. Quasi 90 denunce al giorno, poi non sappiamo quante di queste effettivamente sono arrivate a sentenza definitiva, perché il dato è appunto del 2011, quindi dubito che il percorso giudiziario di ogni denuncia sia arrivato a compimento, però già pensare da parte di un paziente appunto di aver subito un danno da parte di un medico o uno specialista, magari il medico di base per una diagnosi sbagliata, già pensarlo è significativo. È molto significativo, e certamente io posso anche dire che personalmente non saprei permettermi di dire questa la verità, cioè se schierarmi dalla parte del medico o se schierarmi dalla parte di chi si rivolge a questa struttura per ottenere un risarcimento, una giustizia. Perché? Perché è vero che gli ospedali sono tantissimi in Italia e sicuramente il numero di interventi sono tantissimi, però credo che chiunque di noi abbia avuto modo di a che fare con la sanità certamente non può sempre dire di essere stato pienamente soddisfatto o, come dire, neanche giustamente accolto. Noi come Adico, per esempio, abbiamo tantissimi casi di persone o segnalazioni che si lamentano a vario genere. Non abbiamo particolari casi di mala sanità perché magari qualcuno preferisce rivolgersi ad altri, però è anche vero che in qualche caso l'abbiamo raccolto anche noi, e comunque le lamentele sono tantissime dal punto che ci fanno riflettere se la criticità sta nel chi fa un certo tipo di lavoro come dottore e quindi magari può risultare anche lui negligente in quello che sono le sue metodologie operative, oppure sta su quella che è una ricerca da parte di avvocati, società di recupero di infortunistiche di qualunque tipo a intentare cause anche per motivi futili, quando magari non sussistono le condizioni, ma solamente perché magari sappiamo che in Italia ci sono tantissimi avvocati e ciascuno trova sempre qualsiasi motivo per poter magari lavorare o incapparsi un cliente. Ecco, anche la gente comune si è abituata nel tempo ad essere più sensibile sui propri diritti e sul tema legislativo, quindi magari ci può essere anche forse un abuso di queste denunce che magari un tempo non c'erano, non perché una volta i medici fossero più o meno bravi, ma proprio perché adesso c'è questa maggiore sensibilità o ipersensibilità nei confronti dei danni. Guarda, io sono più propenso, al di là di quelle che possono essere le metodologie operative di qualche società o di qualche ente, a credere che ci sia una maggiore sensibilità, perché se anche i dati, come dici te, sono tantissimi e magari non tutti vanno a buon fine o non si sa come vengono risolte queste situazioni, bisogna anche dire, che io faccio fatica a pensare che una persona vado da un avvocato a intentare una strada davanti al giudice se non è fermamente convinto di essere stato vittima di un episodio di malasanità. Un avvocato, bene o male, se si vince o si perde una causa, comunque bisogna pagarlo. Anche se ci sono degli enti che anticipano tutte le spese, ti permettono di fare qualsiasi genere di visita medico-legale gratuitamente, perché comunque loro poi sono strutturati per poter richiedere i soldi di quanto sborsati sulla liquidazione finale, per quanto possa essere strutturati, quando si va ad un'archiviazione o a un nulla di fatto, comunque qualcuno deve essere pagato per il lavoro che ha fatto. Quindi se da una parte ci deve essere, magari da chi si fa troppo coinvolgere o travolgere da quelli che possono essere dei stati di emotività o di un senso giustizialista che magari non ha neanche senso di poter promuovere, dall'altro comunque è vero che sicuramente anche con l'avvento di internet, con l'informazione, con quello che sono tutti i mezzi tecnologici o con la cultura stessa che le persone stanno avendo in questi ultimi anni verso questo settore come la sanità, la gente a mio avviso comunque sta dimostrando molta più sensibilità anche quelli che sono gli ambiti dei propri diritti. E non credo ci sia differenza in queste quasi 90 denunce al giorno tra medici di struttura pubblica o medici di struttura privata. Certamente no, le differenze non sono rilevanti. È da dire che la sanità purtroppo a volte è messa anche in condizioni di dover lavorare in maniera critica e purtroppo questo può aumentare anche le casistiche. Certamente le strutture private o per chi si rivolge nelle strutture private c'è una maggiore attenzione, perché pagando di più si vuole ottenere una prestazione e un'attenzione diversa che certamente magari nella struttura pubblica uno magari è meno prevenuto. Io che so di vado a una struttura privata perché voglio un tipo di pacchetto o essere trattato in una certa maniera. Quando questo non avviene, avendo pagato, rivendico anche i diritti. Certamente non che nella struttura pubblica non li deve avere, ma sicuramente non possiamo dire che se tutto sommato nel Veneto la sanità funziona, dobbiamo anche pensare che ci sono anche delle altre strutture dove comunque la sanità è veramente in situazioni critiche. Noi siamo a conoscenza di ospedali, per esempio, al sud, dove chi viene ricoverato deve portarsi fuori da casa, e quindi questo ci fa capire anche le condizioni con cui una persona o un reparto o un ospedale o il personale anche deve operare o lavorare. È un tema dunque sul quale riflettere, per il quale ringraziamo Carlo Garofolini, presidente dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Appuntamento la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie per Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.